Allora, cominciate ad osservare gli appoggi di tutte le parti del corpo partendo dai piedi e salendo fino alla testa. E osservate innanzitutto che piede è più dritto, quale è più in fuori e poi come appoggiate i talloni, i polpacci, quanto distano le ginocchia, le cosce da terra, come appoggia il bacino a destra e a sinistra. E poi come è messo il coccige, l'osso sacro, l'arco lombare, le vertebre toraciche, le costole, le scapole, il collo, la testa. Come tenete la bocca? E come sono messe le due spalle e le due braccia? Che spalle è più avanti verso il soffitto? E che spalle è più indietro verso il pavimento? Osservate se state respirando, se la bocca è morbida, come è messo il mento. E poi aprite le braccia in fuori a croce. Braccia e mani sul prolungamento delle spalle. Ok, adesso immaginate di essere in piedi con il palmo avanti. Quindi cosa significa in piedi con il palmo avanti? Che il palmo è girato verso? Verso, ditelo. Alto, soffitto. Verso il soffitto. Ok, adesso in questa posizione lentamente ruotate il palmo delle due mani verso il basso, tenendo il braccio e le mani appoggiate a terra e ritorno. Ora, se poste in piedi verso il basso è arrivare ad appoggiare il bordo esterno della mano e il mignolino, invece continuate fino ad arrivare ad appoggiare tutto il palmo della mano. Quindi continuate da palmo avanti girato verso il soffitto a ruotare il palmo in basso verso i piedi e continuare fino ad appoggiarlo sul pavimento. E osservate quando fate questo movimento cosa si muove, se si muovono solo le mani, gli avambracci, le scapole e dopo spalle. Le spalle, il bacino. Il bacino. Le gambe, senti? E anche la testa. E la testa. Ok, adesso, man mano che lo fate, quando girate il palmo della mano al pavimento, sollevate la testa, staccandola, e poi riappoggiate la testa e ruotate il palmo avanti verso il soffitto. Osservate come fare, continuate a farlo, ruotate il palmo verso il basso. Verso il pavimento, quando il palmo tocca il pavimento si solleva la testa, testa sollevata quando il palmo è in giù. Osservate come fare il movimento di sollevare la testa senza sentire sforzo eccessivo nel collo. Cosa potete fare? Tenere la testa il mento appoggiato allo sterno. Ok, Provate. Vi accorgete che in effetti se il mento si avvicina alla gola non c'è, c'è meno sforzo nel collo e che gli facilita muovere bene lo sterno e premere la cintura. Provate invece a farlo lasciando il mento lontano dallo sterno e sentite lo sforzo nel collo. Sentite la differenza o no? Sì. Ok, allora da adesso in poi, quando ruotate da palmo avanti verso il soffitto e il palmo della mano in giù verso il pavimento, avvicinate il mento alla gola e sollevate la testa. E non solo, la prossima volta che lo fate, aggiungete il sollevare anche le spalle e i gomiti. Ruotate i palmi delle mani in giù, sollevate spalle e gomiti e la testa. E ritorno. E osservate se respirate e quando è che inspirate e quando espirate. Ok, piegate le gambe e fate la stessa cosa con le gambe piegate. Talloni bene indietro, sotto i glutei. Cosa? È molto meno faticoso. Eh certo. Prima sentivi la pressione sul sacro, adesso... Eh certo. Tutto il corpo in pressione, quindi viene aiutato. Ok. Adesso rimanete con le gambe piegate, le braccia in fuori e il palmo avanti, palmo avanti, palmo avanti, quindi il palmo girato al soffitto. E rimanendo col palmo così, sollevate il bacino da terra e anche la colonna vertebrale e poi scendete riappoggiando lentamente una vertebra alla volta. E osservate se quando scendete appoggiate la colonna vertebrale e le vertebre dritte o vi sentite andare storte. Non allineate. Osservate se respirate e se i talloni sono bene indietro, perché se i talloni sono bene indietro, sotto la perpendicolare che scende dal ginocchio, le linee di forza si distribuiscono sulle ossa e quindi c'è bisogno di contrarre meno le cosce e i glutei. Ed inoltre osservate cosa fate con il collo. Quando sollevate il bacino, cosa fa il mento? Quando il bacino sale, il mento si avvicina alla gola o si allontana? Si avvicina? Si allontana. Allora, siete gli scorri, quindi provate tutti e due i modi. Provate a sollevare il bacino allontanando il mento e provate a sollevare il bacino avvicinando il mento alla gola. Quale viene meglio? Quello che si avvicina al mento alla gola. Ok, adesso fatelo avvicinando il mento alla gola quando sollevate il bacino. Ok, la prossima volta che sollevate il bacino e avvicinate il mento alla gola, lasciate che il palmo della mano che è avanti verso il soffitto si ruoti in alto e siccome per alto si intende rispetto alla posizione in piedi, questa volta da braccio col palmo avanti verso il soffitto, ruotare il palmo in alto significa ruotarlo verso la parete dietro di voi. Quindi sollevate il bacino, e ruotate il palmo della mano verso, no, verso la parete dietro di voi. Partite da palmo avanti e muovendovi, facendo perno attorno al pollice, attorno al pollice, girate il palmo della mano in alto verso la parete dietro di voi. No. Braccia in fuori, palmo al soffitto, questo palmo avanti. Adesso da lì ruotate il palmo della mano, quello lì è basso, ruotate, no, ruotate, il palmo della mano verso la parete dietro di voi, ruotando attorno al pollice. E poi piano piano scendete. E quando scendete, il palmo della mano è avanti verso il soffitto. Le braccia sono in fuori, non navigli. In fuori, braccia aperte a croce. Braccia con la mano sul prolungamento delle spalle. Braccia con la mano allineate sul prolungamento delle spalle. Ok, riposate. Allungate le gambe, allungate le braccia. Benissimo, ripiegate le gambe. Tenete le braccia in fuori, palmo avanti verso il soffitto, gambe piegate. Adesso, come abbiamo fatto prima, ruotate il palmo delle mani verso il basso, sollevate la testa, le spalle e i gomiti e rimanete sollevate. Poi tenete, sollevate tutte le parti, quindi spalle, gomiti e palmo in giù, e tornate solo con la testa e il collo. Il collo e la testa tornate. No, le spalle e i gomiti stanno sollevati, avanti verso il soffitto. E poi, quando la testa, no, quando la testa e il collo sono appoggiati, ritornate anche con le spalle e i gomiti. E poi di nuovo, no, no, no, no, no, ferme lì. Partite con il palmo avanti verso il soffitto. Palmo avanti verso il soffitto, non in giù, palmo avanti. Ok, adesso da lì sollevate la testa, ruotate il palmo delle mani in giù, sollevate le spalle e i gomiti insieme, la testa e il mento si avvicina alla gola. Rimanete lì con tutto il corpo, eccetto con il collo e la testa che tornano. Le spalle e i gomiti stanno su e quando il collo e la testa sono appoggiati, ritornate con le spalle, i gomiti e il palmo della mano girato avanti verso il soffitto. Il bacino sta fermo, è appoggiato, bacino appoggiato. E ripetiamo, sollevate la testa e ruotate il palmo in giù, staccate spalle e gomiti, rimanete lì in quella posizione, scendete solo con collo e testa e poi con le spalle e i gomiti e ruotate di nuovo il palmo della mano avanti verso il soffitto. Ma si nata anche la colonna dopo il torno? Prova a farlo. Fatelo l'ultima volta. Così. Adesso io torno con la testa. Mm-hmm. E quando torno con le spalle? Sì, certo, così. Ok, vi riposate un po'. Andate le gambe e le braccia. Ops. E quando vi siete riposate, ripiegate le gambe. E rimettete le braccia in fuori, palmo avanti, verso il soffitto. Sollevate il bacino, ruotate i palmi delle mani verso la parete dietro di voi, quindi in alto, attorno al pollice, rimanete ferme in quella posizione, con le mani, i gomiti, le spalle, e scendete piano piano piano con la colonna vertebrale e il bacino. E quando la colonna vertebrale e il bacino sono appoggiati, ritornate anche con le mani che arrivano con il palmo avanti verso il soffitto, non in basso, ma avanti. E lo rifacciamo. Sollevate il bacino, partite col palmo avanti verso il soffitto, ruotate attorno al pollice, ruotate attorno al pollice in modo che il palmo della mano vada in alto verso la parete dietro di voi. E poi da lì, piano piano piano, tenendo ferme braccia, spalle, scendete. La mano non è rivolta verso il basso, la mano è rivolta verso il battiscopa della parete dietro di voi. La mano rimane ferma, ruotata in alto. La mano è ferma, ruotata in alto. Attorno al pollice. E pian piano è scesa la colonna vertebrale del bacino. E alla fine si ruotano le braccia e il palmo della mano che sarà girato avanti verso il soffitto. Ultima volta, sollevate il bacino, sollevate il bacino, ruotate il palmo della mano verso l'alto, attorno al pollice. Quindi il palmo della mano è girato verso la parete dietro di voi. Il palmo della mano non è né in fuori, né in basso, né sul pavimento, ma ruotato verso la parete dietro di voi. E è sul prolungamento del braccio, non è con il polso piegato. E poi da lì scendete piano piano piano piano piano piano piano piano, appoggiando una vertebra alla volta, il bacino, e alla fine ruotate mano avambraccio in modo che il palmo della mano sia ruotato avanti verso il soffitto. E poi allungate le gambe e le braccia. E osservate come state appoggiando a terra. Se c'è qualche piccolo cambiamento. Bene, arrotolate su un fianco e arrivate sedute con le piante dei piedi l'una contro l'altra. Se ce la fate, se non riuscite, gambe incrociate. Se fate fatica, sedetevi su un cuscino. Sedute, preante le piedi l'una contro l'altra, braccia aperte in fuori, palmo avanti, braccia aperte in fuori sul prolungamento delle spalle, braccio avanti, non in alto, non indietro, polso allineato col braccio. E adesso in questa posizione, piano piano piano, ruotate i palmi delle mani in basso e in alto. In basso e in alto. E osservate se muovete solo la mano e l'avambraccio o se muovete anche il resto del corpo. Se fate fatica a stare seduti in questa posizione, potete sedervi su un cuscino, così siete più liberi di muovere il bacino e anche vi accorgerete che se lo fate bene, quando il panno va in giù, la testa si flette in avanti e il torace si incassa, la schiena si incurva e il bacino ha il pube che viene verso di voi. Quando guardate in alto, ruotate il palmo della mano in su, la pancia va in fuori e la schiena si inarca. E continuate, testa in giù, palmo in giù, testa in su, palmo in su, riposandovi ogni volta che avete bisogno. E lasciate che si muova anche tutta la colonna vertebrale, tutta la schiena, il torace. Osservate se respirate. Siamo sicuri che non avete bisogno di sedervi sui cuscini? No, no, fate come volete, ve lo chiedo solo, per evitare fatica a chi può evitarla. Ci sta bene, ci stia. Mi fa fatica stare in quella posizione, può provare sul cuscino, forse le riesce più facile. Osservate se respirate, se sorridete, se la bocca è morbida e vi sdraiate. Ripiegate le gambe, mettete le braccia in fuori, palmo in su, scusate, palmo avanti verso il soffitto. E di nuovo ruotate le due mani verso il basso e verso l'alto. E osservate come viene il movimento dopo averlo fatto da sedute. Il palmo è avanti verso il soffitto, poi si gira e tocca il pavimento, si gira verso la parete dietro di voi, quando è in alto. Sì? Ok, ritornate sedute. Chi ha bisogno del cuscino, sul cuscino. Se sul cuscino state meglio, sedetevi su quello. Se è uguale, state sedute per terra. Braccia aperte in fuori, palmo avanti, piantate i piedi l'una contro l'altra. Se fate fatica, incrociate le gambe o mettetele in modo comodo. E adesso ruotate un palmo in giù e un palmo in su. In giù significa che guarda verso il pavimento, in su significa che guarda verso il soffitto. E osservate se si muove solo il palmo e l'avambraccio o se muovete più parti. Io mi siederei sul cuscino. Per me? Lo stesso. Allora, due cuscini. Incrociate così. Vi accorgerete che se fate bene il movimento, la spalla del palmo che va in giù viene avanti e quella del palmo che va in su va indietro. Quindi lasciate le spalle libere di muoversi avanti e indietro, e quindi vi accorgerete che forse c'è un po' di influenza anche in qualche altra parte. Vi accorgerete che anche il torace ruota. Verso dove guardate? La testa si ferma o la girate? Sì. Se la muovete, in che direzione la muovete? Risposta. Io non la muovo verso il palmo che va in su. Io quello che va in su. Ok, provate a tenerla ferma, provate a guardare il palmo che va in su, provate a guardare il palmo che va in giù. E vedete se riuscite a scoprire qual è quello che biomeccanicamente, funzionalmente, vi aiuta di più, indipendentemente dalle vostre abitudini. E riposate un po'. Andrete a casa con delle spalle da danzatrice, le braccia da danzatrice. Ok, rimettete le braccia in fuori, palmo avanti. Fate lo stesso movimento, un palmo in su e un palmo in giù, ma questa volta prima guardate verso il palmo che va in su, tutte, e continuate da una parte all'altra, guardate al palmo che va in su e osservate se si muove anche il resto del corpo. Fino al bacino. E le spalle le state muovendo o no? Sì. Ok. E adesso lo fate, se avete bisogno vi riposate, dopodiché lo fate guardando il palmo della mano che va in giù. Soffre. La senti scoppiare. Bene, sdraiatevi, pancia in su, osservate, supine, osservate come state appoggiate a terra. Se è cambiato qualcosa, io vedo dei cambiamenti nelle spalle e nelle braccia. Non so ciascuno di voi cosa percepisca, ovviamente se percepite qualcosa. Ed ora piegate le gambe, mettete le braccia in fuori, palmo avanti verso il soffitto. E facciamo da sdraiati quello che abbiamo appena fatto seduti, quindi ruotate un palmo in giù e un palmo in su. Palmo in giù significa che preme sul pavimento, palmo in su significa che si gira verso la parete dietro di voi ruotando attorno al pollice. E vi accorgete che di conseguenza una spalla si muove avanti verso il soffitto e una viene spinta indietro verso il pavimento. Qual è la spalla che si muove avanti? Quella del palmo che va in giù. Ok, allora ruotate un palmo in giù e la stessa spalla va in avanti e l'altro palmo in su e la stessa spalla va indietro. Quindi c'è un dondolio tra una spalla e l'altra man mano che è ruotato un palmo in su e un palmo in giù. Come la mezzaluna che taglia la verdura. Una spalla va indietro, una spalla avanti. Quindi cosa succede nel resto del corpo? Si muove fino a bacino, si muove tutte le costole. Ok, si muove tutto fino al bacino, le costole. Quindi cosa succede quando sollevate per esempio la spalla sinistra? Quando muovete avanti la spalla sinistra, cosa succede? Si alza cosa? Si piega leggermente anche la testa. testa segue il movimento. Dove? Beh, a me ad esempio, quando vado indietro con la spalla sinistra, la testa va verso sinistra. Ok, quindi la testa guarda il palmo che va in su. Esatto. E il bacino ruota tutto da, cioè fa un arco. Spiegate meglio. Senti che praticamente il bacino e la spalla si vanno incontro, no? Si vanno incontro. Allora, detto in altre parole, osservate, mettete l'attenzione sul piede. Quale piede premete quando la spalla sinistra va indietro e il palmo sinistro va in su? Carichi il piede sinistro. No. Allora, aspetta. Provate. Che piede premete, e quindi che anca si solleva, quando muovete indietro, premete la spalla sinistra il e ruotate il palmo sinistra. Il piede opposto. Sinistra. Quando ok. Adesso provate a farlo. E quando muovete il palmo della mano sinistra in su e schiacciate la mano, la spalla sinistra sul pavimento, lasciate che il piede destro prema e si sollevi l'anca destra. Quando ruotate in su, il palmo destro e la spalla destra va indietro, premete il piede sinistro e lasciate che l'anca sinistra si sollevi. E la testa guarda verso il palmo che va in su. Ed ora, man mano che lo fate, guardate verso il palmo che va in giù. Prendetevi un attimo di tempo, ascoltatevi in modo da coordinare il movimento. E pian piano si diffonde in tutto il corpo. E vi riposate allungando le gambe e le braccia. E osservate come l'appoggio a terra adesso. Adesso è dritto. Adesso? È dritto. È dritto. Invece prima andavano su e giù. Nel bacino e nelle spalle. Bene, arrotolate di fianco e arrivate in ginocchio. Dopodiché, quando siete in ginocchio, tenete il ginocchio sinistro appoggiato per terra e appoggiate il piede destro avanti. Siete sul ginocchio sinistro appoggiato e la gamba destra piegata avanti, col ginocchio sollevato e il piede appoggiato per terra. No, quella destra è appoggiata. Braccia aperte in fuori, palmo avanti. E adesso in questa posizione ruotate il palmo della mano, di entrambe le mani, in giù e in su, osservando come fate questo movimento, osservando cosa muovete. Cosa state muovendo? Il bacino. Sterno. Bacino, sterno. E dopo? Spalle. Le spalle. Ginocchio. Quello che è per terra. Bacino. Ok, adesso? Quando ruotate il palmo in giù, guardate con la testa in giù, vi incurvate un po'. Quando il palmo in giù. Quando il palmo in su, guardate un po' in alto e allungate la testa e la schiena. Quando vi ruotate col palmo in giù, vi incurvate tutte. Quando ruotate in su, vi allungate la testa. E cambiate gamba. appoggiate il ginocchio destro e poi il piede sinistro avanti. E fate la stessa cosa. Palmo avanti, braccia aperte, palmo avanti, ruotate il palmo in giù e in su. Lasciando che si muova tutto il corpo, che tutto guardi in giù quando il palmo va in giù, che tutto guardi in su quando il palmo va in su. Quindi si muove la testa, il collo, il torace, il bacino, tutto si muove. E riposate un po', come volete. Ginocchio sinistro appoggiato per terra, piede destro appoggiato avanti, braccia in fuori, palmo avanti ed ora ruotate un palmo in su e un palmo in giù. Contemporaneamente, uno va verso il soffitto e l'altro va verso il pavimento. E osservate cosa fate con le spalle e le braccia. Come si muovono le spalle? Vi accorgerete che la spalla del palmo che va in giù si muove bene avanti, proprio ruota avanti, e quella del palmo che va indietro ruota indietro. Quindi fate partire il movimento dalla mano fino ad arrivare a farlo molto bene nelle spalle, che proprio ruotano e vengono bene una avanti e l'altra indietro, e di conseguenza quindi ruota anche il torace. E osservate la mano, cosa fa la testa, si ferma o si muove? E se si muove, guarda il palmo che va in su o quello che va in giù. E riposate un po'. E cambiate gamba. Ginocchio destro appoggiato a terra. Piede sinistro avanti, braccia aperte in fuori, palmo avanti, ruotate un palmo in su e un palmo in giù. E osservate se le spalle si muovono bene, una avanti e l'altra indietro. E se la testa si gira da una parte o dall'altra. E da che parte va? Da quella del palmo che va in su o da quella del palmo che va in giù? Potete provare entrambe. E vi sdraiate un po'. Osservate come l'appoggio del vostro corpo su di me e preparatevi per il gran finale. Immaginate di essere i tre moschettieri, spadaccini. Arrotolate di nuovo sul fianco, arrivate in ginocchio. Lasciate il ginocchio sinistro appoggiato a terra, il piede destro appoggiato avanti. Quindi il ginocchio destro è sollevato. Braccia aperte in fuori, no, questa volta un braccio avanti e un braccio indietro, quello che volete. Ognuno nella posizione che le piace di più. Uno avanti e uno indietro. Uno avanti e uno indietro. Uno avanti. Ok, e adesso ruotate il palmo della mano in su e in giù. Uno va in su e l'altro va in giù. E come abbiamo fatto prima, lasciate che si muovano anche le spalle, anche il torace. Quindi osservate cosa fate con la testa, da che parte guarda la testa. C'è chi di voi avanti il piede destro, il braccio destro, la gamba destra, il braccio destro, e chi di voi invece avanti la gamba destra, il braccio sinistro. Va benissimo, dopo inverteremo tutto. Osservate se come spadaccine, quando ruotate il palmo avanti in alto, vi allungate e guardate avanti. E quando ruotate il palmo sinistro in alto, vi allungate indietro e guardate al palmo. E quando di nuovo ruotate il palmo destro avanti e vi allungate avanti e guardate la mano destra. Bene, osservate che un braccio avevate avanti, se è lo stesso della gamba, poi cambiate gamba, quindi appoggiate il ginocchio destro, mettete il piede sinistro appoggiato, il ginocchio sollevato, e mettete il braccio nello stesso modo nel quale avete fatto dall'altro lato. Chi aveva stesso braccio, stessa gamba, lo fa anche di qua. Chi aveva opposto, lo fa anche di qua. Ok, e fate la stessa cosa che avete appena fatto. Ruotate un palmo in su ed uno in giù, lasciando che si muovano le spalle in avanti e indietro, quindi che si ruoti il torace. E osservate se respirate e se a mo' di spadaccino, quando ruotate il palmo delle mani avanti, vi allungate avanti come se aveste la spada in mano. E quando ruotate il palmo indietro, ruotate indietro, vi allungate indietro. Osservate se tenete la bocca morbida, se respirate. E vi riposate. Ora facciamo il super gran finale. Vi rimettete in ginocchio, col ginocchio sinistro appoggiato e il piede destro appoggiato per terra avanti, col ginocchio destro sollevato. Braccia aperte in avanti, però il contrario di prima. Quindi chi prima aveva avanti stessa gamba e stesso braccio, adesso mette avanti l'abbraccio opposto alla gamba che aveva. Chi prima aveva avanti braccio opposto alla gamba avanti, mette avanti lo stesso braccio e la stessa gamba. E in questa posizione cominciate a ruotare un palmo in giù e un palmo in su e a seguire il movimento. e la testa guarda verso il palmo che va in su. E osservate se state respirando, come tenete la bocca. E ora provate a guardare il palmo che va in giù. Se avete bisogno prima che riposate, poi fate la stessa cosa con le mani nella stessa posizione, braccia, mani e gamba destra nella stessa posizione. E guardate il braccio che va in giù. Vi riposate un po' e poi cambiamo gamba. E cambiate gamba, appoggiate il ginocchio destro e il piede sinistro per terra, avanti. E cambiate anche qua la posizione delle braccia, che aveva stessa gamba e stesso braccio, mette a posto. Che aveva l'opposto, mette la stessa gamba e stesso braccio. E fate lo stesso movimento, portate il palmo in giù e un palmo in su. E guardate il palmo in su. E poi guardate il palmo che va in giù, va riposandovi quando avete bisogno. State inclinando avanti verso il palmo, avanti quando è in su, e indietro quando è il palmo dietro in su, e vi sdraiate. Ed ora, prima di osservare gli appoggi, mettete le braccia aperte in fuori e ruotate palmo avanti verso il soffitto, palmo avanti verso il soffitto, e ruotate il palmo e le braccia in basso e in alto. Osservate come viene e fate attenzione che in alto non è avanti verso il soffitto, ma verso la parete dietro di voi. Quindi partite con palmo avanti verso il soffitto, quella è la posizione di partenza. E da quella posizione di partenza girate il palmo in giù e premete il palmo sul pavimento. E ritornate in posizione di partenza col palmo verso il soffitto avanti e poi ruotate il palmo in su verso la parete dietro di voi. Lasciate andare, allungate le braccia e cominciamo ad osservare il modo di stare.